Imparo lo Zohar con Rabbi Michael ben Pesach Portnar, parte seconda, lezione 19. Sono presenti molti studenti. Noto che molti di loro sono preoccupati per loro stessi. I più desiderano un salvataggio. Vogliono sentirne parlare ed è buono, perché se non si cerca il soccorso, come lo si può trovare? Questa lezione sarà alquanto diversa. Non sono io a decidere come sarà la lezione. Voglio insegnare lo Zohar, ma per ora sarà una Torah parlata. E la Torah è la stessa come lo Zohar. La differenza è che non leggiamo, ma sarà una lezione parlata. Importante è l'interazione. Sarò ispirato guardando gli studenti e l'ispirazione produrrà una Torah parlata. In un certo senso, l'insegnamento della Torah è sempre stato parlato solo all'inizio della nostra era. Le parole sono state scritte. L'insegnamento parlato è il vero modo di insegnare. Lo scrissero perché avevano paura che si sarebbe perso. Oggi sarà un insegnamento parlato e lo Zohar sarà la nostra guida. Nelle lezioni introduttive ho già parlato molto della formula di salvezza. In molti luoghi la Kabbalah viene insegnata, ma come mai non parlano mai della formula salvifica? Uno insegna Kabbalah come una scienza spirituale e un altro insegna Kabbalah come la chiave del successo, considerando le questioni terrene. Non dico che è sbagliato, è così com'è. Solo io parlo della formula salvifica, perché mi viene rivelata come una formula salvifica e la trasmetto a te, che stai leggendo in questo momento. Non pensare che questa sia la mia scelta. Il compito mi è stato dato e lo eseguo. La formula di salvezza è molto importante per le persone occidentali. Con occidentale intendo Europa. Europa orientale, Europa occidentale, non c'è molta differenza tra di loro. E naturalmente Nord America e l'Australia, anche per loro hanno creato la formula di salvezza. Non solo il Nord America, ma anche il Sud America. Ad esempio Suriname, la Kabbalah farà più di tutti gli aiuti allo sviluppo messi insieme. Per mezzo della Kabbalah il Suriname prospererà. Studente, il paese è di orientamento ebraico, anche le chiese. Non si può paragonare la chiesa del Suriname con le chiese nei Paesi Bassi. Il paese è benedetto, va tutto bene. Se metti un seme nel terreno, crescerà, ed è lo stesso con il seme spirituale. Essi hanno bisogno del seme spirituale, sono desiderosi di ascoltare, ma ogni cosa è su di noi. Lì ci deve essere qualcuno che si sveglia. E poi le benedizioni faranno la loro parte. Non pensare che un paese abbia bisogno di migliaia di persone. No, Solo una persona sveglia può cambiare un paese. Ma principalmente la storia che racconto è per gli europei. Come mai? Per capire la formula salvifica e per renderla proprio tua, hai bisogno di alcune abilità di pensiero, che significa che devi camminare con i tuoi piedi. Una persona nell'est ha bisogno anche della cabala, ma la cosa è che sono meno preparati ad ascoltare, perché fanno meno uso dell'abilità di pensiero. Vanno verso la destra, si arrendono e ignorano l'uso delle loro abilità mentali. Pertanto le lingue che vedi sul nostro sito sono lingue europee. Ma chissà se c'è qualcuno dall'est, ma soprattutto vedrai le lingue europee. Voglio parlare della formula di salvataggio e non di una formula salvifica. Perché? Qual è la differenza tra quelle due? Qual è la differenza tra una formula di salvataggio e una formula salvifica? Devi sapere, insegno la Torah parlata e lo Zohar parlato. Questa è la più sublime di ogni cosa. Ora la domanda è: perché parlo della formula di salvataggio e non della formula salvifica? All'uomo è dato il salvataggio, che significa che l'uomo stesso può causare il salvataggio. La salvezza viene da sopra. In un certo senso il salvataggio viene anche da sopra, ma la cosa è che l'uomo ha dato inizio al salvataggio seguendo le istruzioni della formula di salvataggio. È l'uomo stesso che chiede e riceve il salvataggio, quindi posso trasmettere la formula del salvataggio all'umanità. Lo Zohar porta anche la formula di salvataggio per l'umanità. Se l'uomo è attivo sul suo lavoro di salvataggio, riceverà il salvataggio sicuramente. Chiaro? Questa formula di salvataggio è una formula attiva e l'uomo ha il controllo su di essa. Lui causa il proprio salvataggio. Mentre la formula salvifica viene da sopra e naturalmente uno ha bisogno ancora di fare del proprio meglio, del suo meglio, ma la salvezza viene dopo l'arrivo del Messia. Questa formula di salvezza accade solo dopo l'intera correzione, il Gmar Tikkun. Questo è anche insegnato nello Zohar. All'inizio ti ho detto che dovremmo imparare la Torah aperta e di certo questa è la Torah segreta, ma considerando solo i 6.000 anni di correzioni e non di più. Questo è il modo che ho imparato e questo era prima che aprissi lo Zohar. Ora te lo dico, non è come avevo detto prima. Lo Zohar ci dà una conoscenza molto più profonda e ciò che posso esprimere e trasmettere a te dipende solo da te. Lo Zohar sta parlando di cosa accadrà dopo i 6.000 anni di correzioni, cosa accadrà considerando i punti di forza dopo l'arrivo del Messia. Non ci sono segreti nello Zohar. Ogni cosa è data all'uomo. Prima ci sono i 6.000 anni di correzioni seguiti dall'arrivo del Messia, e non si ferma qui. Ulteriori sviluppi e resurrezioni, resurrezioni dei morti, tutto è dato nello Zohar. Lo Zohar parla dopo il tempo del Messia. Molte pagine sono coinvolte e dedicate a ciò che viene dopo l'arrivo del Messia, come il corpo si collega con l'anima, fino al tempo in cui la morte è scomparsa. Tutto è scritto nello Zohar. Questa seconda parte, dopo l'arrivo del Messia, non viene insegnata, solo la prima parte che riguarda le correzioni e l'arrivo. Ma la seconda parte, cosa succede dopo l'arrivo, e considerando il tempo della risurrezione dalla morte, a me è dato il permesso di insegnare questo. Non che io sia così speciale, penso che sia il momento giusto. Quindi leggerai cose che non sono mai state rivelate prima, vale a dire non scritte. Naturalmente, in ogni generazione, i segreti venivano trasmessi, ma solo verbalmente. È successo da bocca a bocca perché qualche mistero era necessario. Con mistero intendo che uno aveva bisogno della giusta kavanah, la giusta intenzione, perché se una persona non ha la giusta intenzione, la giusta kavanah, era proibito dargli qualcosa che non riusciva a capire. In questo vedi come è importante la tua kavanah. Se muoio, il mio corpo cade a pezzi. Che succede? Ci viene detto che il corpo rimane in contatto con l'anima, ma come posso sperimentarlo? Ora non ho le parole per dirtelo, perché vuoi capirlo con questi tuoi cervelli terreni. È troppo presto. Anch'io ho molti momenti che non comprendo nulla. E ho molte domande, ma la velocità con cui progrediremo è enorme. Ciò che non si può fare oggi può essere fatto in 3 mesi. Pazienta, perché ci sarà dato. Nulla viene da sopra se non scende. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è la giusta kavanah. È così importante per te avere la giusta kavanah perché quella è l'unica condizione per andare avanti, entrare nei segreti della Torah e comprenderli e presentarli all'umanità. Lascia andare tutti i pensieri che tu sei in cima, che è stato dato solo a te. Tutto è dato all'umanità. Solo ora c'è già il permesso da sopra per trasmetterlo. Pertanto parlo della formula salvifica e non di una formula di salvataggio. Naturalmente potrei parlare della formula di salvezza e lo farò, ma più tardi. Parlerò di ciò che accadrà dopo i 6.000 anni di correzioni, del modo come arrivare al Gmar Tikkun, le correzioni finali per l'intera umanità, quando il tempo è maturo, perché anche tu di questo necessiti sentire. In nessun posto nel mondo puoi trovarlo sulla carta. Nessuno sa come scriverlo. È scritto nello Zohar. Ma cos'è una traduzione senza le parole verbali? Le parole che dico dipendono da te. Dipende sulla tua kavanah, ma c'è una richiesta. Hanno piena concentrazione perché le parole non vengono da me, e sono così sparite. Se non hai la piena concentrazione, le parole spariranno e ciò è un peccato. Non solo la concentrazione è importante. Apriti, lascia andare tutta la resistenza che è dentro di te, perché sento la resistenza e ciò bloccherà le parole. Quindi avere la piena concentrazione e nessuna resistenza. Nulla ti sarà portato via da te. Tutti i problemi che hai, lasciali andare per un momento. Lascia andare tutta la miseria del mondo. Non c'è miseria. In questo momento non c'è assolutamente alcuna miseria nel mondo. Non c'è resistenza. Ogni cosa se n'è andata. Se il tempo si è fermato e io sono seduto nelle grotte proprio come Shimon Bar Yochai. Nessun cambiamento, niente, come se il tempo si fosse fermato. Non c'è cambiamento nel mondo spirituale. Ogni cosa è serena. Questa deve essere la sensazione quando sei seduto qui, quando stai leggendo questo. Mi collego a te e lo porto da sopra a sotto. Anche se non hai comprensione, non importa. Ascolta, leggi e senti le parole. Posso solo parlare della formula salvifica. Ovviamente sentirai il bisogno di disegni, ma io li darò il meno possibile. Ma ciò che è interessante, nel momento in cui qualcuno chiede per un disegno, io vedo nel mio libro che ho fatto anche una nota, ma ho pochi disegni, solo un po', mentre è possibile dare molti disegni perché la struttura e le variabili sono infinite. Eppure devi sentirli dentro di te. Quindi è importante, è così importante essere aperti. A che serve se hai talento per la fisica, la matematica o le lingue? Apri te stesso e leggi. Come già sapete, ogni cosa consiste di 5 sfirot, 5 sapori. La luce stessa è singolare e non ha sapori. Solo la creazione sperimenta 5 gusti, chiamati 10 sfirot. 5 gusti, il quarto ne ha 6, quindi 10 sfirot. Con questi 10 sfirot, non importa dove sono sulla scala spirituale, puoi vedere l'intero sistema operativo. Ogni cosa è inclusa perché nulla esiste nel generale che non esiste nel dettaglio e viceversa. Così i 10 sfirot, a volte dico 5 perché è più facile, ma nei 10 sfirot ogni cosa è intrecciata nei 10 sfirot, quindi puoi capirlo. E se hai qualche comprensione, non importa dove sono i 10 sfirot. Nel mondo Azilut o Bria, sono solo gradazioni. Azilut è collegato con Kokmah, Bria con Binah, Yetzirah con Zeiranpin. Sapere che la struttura è la stessa. La struttura dei 10 sfirot è in ogni mondo, in ogni sfera la stessa. Inoltre il mondo spirituale riguarda solo te. Significa che ogni cosa è dentro di te, quindi parlo solo di te. Ognuno di noi ha a che fare con il suo sviluppo personale, la sua scala personale, non importa dove sei. uno ha più comprensione per il mondo Briah e un altro per Yetzirah. Non importa, perché sei composto da 10 Sfirot. I 10 Sfirot sono il tuo campo. Hai bisogno di svilupparli per il tuo sviluppo spirituale. Ricorda che puoi cambiare, ma in ogni caso ci sono sempre 10 Sfirot. È tutto di 10 Sfirot. L'unica cosa che hai bisogno di sapere è come funzionano i tuoi 10 Sfirot. E inoltre la loro funzione è ovunque la stessa in ogni sfera. Adam Kadmon è molto sottile, quindi è impossibile parlare di Adam Kadmon, ma da Azilut il funzionamento dei 10 Sfirot è lo stesso. Azilut è più ruvido e più giù, più sono ruvidi i mondi, ma tuttavia il funzionamento dei 10 Sfirot è lo stesso. Anche nel nostro mondo, che chiamiamo il mondo dove il lavoro è stato fatto con mani e piedi, ma lavorando su noi stessi per mezzo della Kabbalah, anche allora puoi sperimentare i 10 Sfirot. E se non li sperimenti, non ti preoccupare. La luce scolpirà i 10 Sfirot. Si tratta sempre di 10 Sfirot. Quindi è importante capire quei 10 Sfirot, i tuoi 10 Sfirot, perché possono essere diversi dal colore o avere altre variabili. Ho le mie speciali 10 Sfirot e tu hai le tue speciali 10 Sfirot. Ognuno di noi ha 10 Sfirot che stanno costruendo nello stesso modo negli stessi mondi Azilut, Briah, Yetzirah e Asiyah, e nel nostro mondo che è il luogo più ruvido nell'universo. Ricorda che anche un piccolo topo ha 10 Sfirot. Ora puoi pensare, ma cosa sa un topo dello spirituale? Assolutamente nulla, ma tuttavia un topo ha 10 Sfirot corrispondenti con il livello e il lavoro di cui ha bisogno. C'è anche un'altra parola su come esprimere i 10 Sfirot. C'è ad esempio il santo nome del creatore, Avaya, perché Avaya è Yud Ei Vav Ei. La prima lettera Yud è Chokmah, ma prima di iniziare a scrivere la lettera Yud, sappi che inizi con un punto e questo punto è chiamato Kutzo Shel Yud, il punto dello Yud, che è Keter. Yud stesso è Chokmah. La prima Ei è Binah. La terza lettera Vav è Zeirampin, che ha 6 Sfirot, e l'ultima Ei è Malkut, la decima Sfirah. Puoi anche dire che ci sono 5 Sfirot. Significa che Zeirampin deve essere visto come una Sfirah. Anche il santo nome, che ha 4 lettere, è in un modo 5. 4 più il punto dello Yud, che è Keter, 5. E se conti tutti e 6 gli Sfirot di Zeirampin, fanno 10. Questo è il soggetto del nostro studio, i 5 o 10 Sfirot. O quando studiamo il nome di Avaya, sappiamo che è anche sulle Sfirot. O quando studiamo altri nomi e soprannomi del Creatore, si tratta di Sfirot. non sono opposti, ma un'aggiunta dello stesso soggetto. Una sfirà è un'aggiunta considerando il creatore. Ti dà informazioni sulla qualità del creatore, sulle sue forze che lui sta usando in quel particolare momento, in quel particolare aspetto. Una volta che hai più comprensione delle sfirot, hai più comprensione del creatore, sul creatore. Hai più comprensione di te stesso. Non hai più bisogno. Se sai come funziona, conosci il creatore e conosci te stesso, quello è il tuo salvataggio. Il nome del creatore, che è Avaya, è il tuo salvataggio. Non faccio disegni, te lo trasmetterò verbalmente. Questo è il più antico e più profondo modo di insegnamento. Come ti ho detto, il nome Avaya è il salvataggio. Cosa o come è il salvataggio? Qual è il parallelo tra il nome Avaya e i 10 sfirot? Guardiamo prima al nome Avaya in ebraico. Yud Hei Vav Hei, che significa Aya, lui era, Oveh, lui è, Iyeh, lui sarà. Puoi vedere quelle quattro lettere come un totale delle parole Avaya, no, delle parole Ayah, Oveh, Iyeh. Perché non diciamo Ayah, Oveh, Iyeh, o lui era, lui è, lui sarà? Perché usiamo il nome Avaya? Questo è per mostrarti come la natura del creatore è stata e sempre sarà. In un certo modo, passato, presente e futuro, in una sola parola. Questa è la formula della vita infinita. Questo nome rappresenta l'infinito e quando ti porti in accordo con questo nome ottieni lo stesso infinito. Il prossimo passo è espandere questa formula di salvataggio e puoi farlo con i 10 sfirot. Nel momento che tu vedi come funziona, vedi il salvataggio. Non c'è altro modo. Puoi guardare attraverso il tuo binocolo le stelle e i pianeti e provare a capire l'universo. Ma devi sapere che i 10 sfirot sono dentro di te. La difficoltà è quando parlo dell'inizio e dico che dalla sua essenza è venuta la luce Ein Sof. Questa è la luce dell'infinito. Questa luce è stata ingrossata. Il primo ingrossamento è chiamato Adam Kadmon. Da Adam Kadmon ci fu un altro ingrossamento. Da Keter a Kochmah e da Kochmah a Binah, ma ancora erano uno. È successo tutto alla luce di Ein Sof. E l'ultimo ingrossamento fu la Sfirah Malkut. Solo Malkut non era adatta a ricevere la luce, altrimenti come poteva essere creata la creazione? Se tutti gli sfirot potessero ricevere la luce e la luce dovesse dominare sulla creazione, dov'è la possibilità che la creazione di diventare consapevole della loro interezza? Per questo motivo vedi in questo mondo perché una ragazza e un ragazzo lasciano casa e iniziano una nuova vita lontano dai loro genitori. La prima limitazione era in Malkut. 9 Sfirot furono autorizzati a ricevere la luce, ma non Malkut. Questo è stato il primo modo in cui il Creatore ha creato i 10 Sfirot. Ma lui ha visto che qualcosa era sbagliato. Era questo il modo in cui la creazione poteva consistere per sempre? Solo 9 Sfirot potevano ricevere la luce e la decima rimaneva senza luce. L'intenzione del Creatore era, è e come sempre sarà, che l'intera creazione sarebbe arrivata alla completezza. E questo non era il modo. Lui doveva trovare un modo che così Malkut potesse ricevere la luce. Pertanto il Creatore ha deciso un'altra limitazione. Il Creatore ha visto che il mondo non poteva consistere in questo modo e ovviamente lui lo sapeva già questo dalla prima volta. Ma questo è il modo per noi per esprimere la creazione. 9 Sfirot potevano ricevere la luce e la decima Malkut no. Cosa fece il Creatore nella sua saggezza? La fece ascendere a Binah e in questo modo la salvezza fu assicurata. La prima volta che lui ha creato 10 Sfirot e i loro ingrossamenti, i 10 Sfirot potevano riflettere la luce per 9 Sfirot. Malkut era troppo ruvida che non poteva ricevere la luce. Quello che ha ricevuto è stato Hassadim, misericordia, perché anche quando non ricevi nulla, c'è il gusto di Hassadim. Ma non era abbastanza per la salvezza. Perciò lui lasciò ascendere Malkut. Lui portò Malkut in contatto con Binah, che è la terza sfira. E Binah riceve sempre la luce, sempre luce. La forza di Binah è chiamata Binah Ki Hafetz Chesed U. Significa lei desidera solo misericordia. Questa è la forza di Binah, non importa in quale livello o sfera lei è. Binah, che è in Azilut, ha questa forza, ma anche la Binah di Briah. L'essenza della sua forza è il desiderio di misericordia, non per la saggezza, mentre solo una sfira ha bisogno di Chokmah, e quella è Malkut. Perché Malkut ha bisogno di Chokmah e non del resto. Più bassa è la sfira e più spessa è, pertanto diventa molto difficile per la luce di penetrare la più bassa sfira. Malkut diventa sempre più pesante ed è perciò che non poteva ricevere la luce. La luce non poteva penetrare perché era così ruvida, così spessa. Quello che poteva penetrare era la forza di misericordia, ma non era abbastanza luce per la Malkut. Qual è il significato più profondo della luce? Qualcosa di luce significa qualcosa che arriva alla comprensione e quello dà piacere. L'oscurità significa che non c'è comprensione, si rimane nell'ignoranza, oscurità. Pertanto Malkut ha bisogno della luce di Chokmah, la luce della saggezza che non ha limitazione e tuttavia è stato fatto in questo modo che a Malkut non è stato permesso di ricevere la luce Chokmah. Perché? Per la semplice ragione, se tutte le 10 Sfirot dovessero ricevere la luce completa, non ci sarebbe una creazione. puoi vedere questo. Il creatore voleva creare una creazione, quindi lui decise che l'ultima sfera doveva essere diversa. Lasciami fare una domanda. Qual è la differenza tra Malkut, che era destinata a diventare una creazione, e gli altri 9 Sfirot, i quali hanno ricevuto tutta la luce? Keter ricevette più luce, Kokma qualcosa in meno e più in basso stava meno, era la ricezione fino alla Malkut. Lei non poteva ricevere nulla. Alcune risposte. Malkut costruisce il Masak, così lei può riflettere la luce. Questa è una buona risposta. Solo la vera Malkut può riflettere la luce, ma qual è la differenza essenziale tra la luce e quella che era destinata a essere la creazione? Se puoi riflettere, puoi dare. Anche questo va bene, ma qual è l'essenza della differenza? Malkut prende e la luce dà. Malkut è il desiderio di ricevere. Questa è la differenza essenziale tra la luce e Malkut. I primi 9 Sfirot hanno il desiderio di dare, non hanno bisogno di Kokma. Naturalmente ricevono Kokma, ma solo per il gusto di dare. Vogliono Kokma solo per trasmetterlo alla creazione. E Malkut è destinata ad essere la creazione, lei che ha il desiderio di ricevere. Il desiderio di ricevere è essenziale per creare qualcosa e significa senza il desiderio di ricevere non c'è creazione. Ora puoi chiedere. Dall'inizio c'è il desiderio del creatore di dare. Quindi come possiamo parlare di creazione perché c'è solo il desiderio di dare? Sta significando solo la luce? Andiamo più a fondo in questo argomento. Se per esempio tu fossi il creatore e volessi creare una creazione, sai che per creare qualcosa allora deve essere diverso da te, o no? Se il desiderio di dare, quindi, per creare qualcosa, deve essere opposto. Sei il desiderio di dare, quindi, per creare qualcosa, deve essere opposto. Ora stiamo parlando della luce, e la luce è l'aspetto di dare. Quindi la creazione deve essere diversa. L'opposto dell'aspetto del dare è l'aspetto del ricevere e quella è Malkut. Domanda. Puoi anche vederlo come una parte della materia? In effetti, la materia è la conseguenza. La materia è il corriere del desiderio di ricevere. Ha bisogno di una nave. Esattamente ha bisogno di una nave e una nave è la materia. Ciò che è stato creato è stato il desiderio di ricevere. Prima c'erano 9 Sfirot e la 10ª Sfira Malkut era il desiderio di ricevere. In questo modo la creazione non sarebbe in grado di mantenersi perché il desiderio di ricevere si comporterebbe secondo le sue leggi, ricevente, e la luce solo darebbe. Questo non era un buon piano perché non era equilibrato. Il creatore aveva un altro piano. Il suo desiderio era che la creazione sarebbe la stessa come lui, che la creazione avrebbe le stesse qualità come le aveva lui. Significa che avrebbero imparato a dare anche se questo aspetto del dare sarebbe contro la loro natura. Pertanto questo è chiamato soprannaturale. Un miracolo è soprannaturale ed è un miracolo quando un essere umano può impostarsi per diventare dare. Miracolo significa che uno è sulla soglia del dare. Questo dà il sentimento di eternità dentro di te, perché solo il Creatore può dare. Quindi senti l'eternità dentro di te, mentre entrambi esistono. Quindi, qual è stato il secondo passo che ha fatto il Creatore? Lui portò Malkut sopra Binah. In ogni grado lui ha portato Malkut a Binah, quindi qualcosa le è sorto. Naturalmente sai già che non c'è scomparsa nello spirituale. Se dico che Malkut è salita a Binah, significa che Malkut è ancora lì al suo posto. Il significato di ciò è che Malkut ha ancora l'esperienza di essere al suo posto, l'esperienza di non essere capace di ricevere la luce, non la lascia mai. Questa esperienza esiste sempre e sta sotto. Che cosa ha fatto il Creatore? Ha portato Malkut a Binah, ma qual è il significato di Binah? Non solo come tu puoi vedere qui sull'albero di vita, ma in ogni sfera. Con questo intendo, c'è l'albero di vita nella forma di 10 sfirot, ma devi realizzare che dentro ad ogni sfira ci sono 10 sfirot anche nella forma di un albero di vita. Malkut ha anche 10 sfirot e la Malkut de Malkut anche lei si è elevata alla Binah di Malkut. Lo stesso con la sfira Yesod, ci sono anche 10 sfirot, che significano che la Malkut di Yesod si è elevata alla Binah di Yesod. Capisci? Binah ha 10 sfirot e la Malkut della Binah è salita alla Binah dei Binah. È chiaro? Non preoccuparti se non capisci. Lascia che le incisioni facciano il loro lavoro e dopo vedrai i collegamenti. Kokma ha 10 sfirot, che significa che c'è anche Malkut, e questa Malkut è salita alla Binah di Kokma. Lo stesso con Keter, anche lui ha 10 sfirot e la sua Malkut è salita alla Binah del Keter. Quindi in ogni sfirot c'è stato il sollevamento della Malkut alla Binah corrispondente. Questo è stato il salvataggio che il Creatore ha visto nella sua visione. E dal nostro punto di vista dobbiamo fare lo stesso. Significa che anche noi dobbiamo portare la nostra Malkut a Binah. In ogni situazione c'è Malkut e c'è Binah. 10 sfirot di quella particolare situazione e ciò che hai bisogno di fare è portare la Malkut di quella particolare situazione nella Binah di quella particolare situazione. Questo è l'inizio più eccellente del tuo salvataggio. Ovviamente questo inizio può essere fatto solo passo dopo passo, ed è ancora un inizio. In questo modo i mondi sono creati e a volte parlo dell'essere umano e a volte parlo dei mondi. Non c'è differenza tra il mondo e l'essere e un essere umano. Quindi il primo ingrossamento della luce è chiamato Galgalta, che significa teschio. Dov'era Malkut? Era al suo posto in fondo, che significa che tutti gli sfirot sono lì. Adam Kadmon è stato il primo ingrossamento della luce. C'era il posto vuoto e in questo posto vuoto sarebbe venuta la creazione. Fu Ein Sof che entrò in questo spazio vuoto e Adam Kadmon fu il primo a ricevere la luce. Quando Malkut venne in esistenza, ha potuto vedere tutte le luci. Ciò significa che poteva riflettere tutte le luci e dunque per questo poteva avere il massimo ricevimento. Dopo questo venne il grossolano, sta significando che dopo questo è stata la realizzazione dei mondi, perché il grossolano è lo stesso di mondo. Entrambi sono materia e in questo materiale l'uomo potrebbe sorgere. Ciò che era necessario era un ulteriore ingrossamento. Come può avvenire questo ingrossamento? Malkut salì alle Sfirot sopra di lei. A Keter, Kokma, Binah, Zeirampin e Malkut. Ma qual è il significato di lei che sale i cinque Sfirot? È l'effetto di questo innalzamento che lei riceve più o meno luce. Ci sono cinque Sfirot: Keter, Kokma, Binah, Zeirampin e Malkut. E Malkut riflette tutti e cinque Sfirot, quindi lei può ricevere la massima luce. Il prossimo ingrossamento è l'ingrossamento della luce Kokma e questo è chiamato Parzuf AB. Ab. Qual è il significato di Ab? Ciò significa che la luce di Keter non si vede più. Il secondo Parzuf o il secondo ingrossamento della luce significa che meno luce può essere vista. Il primo ricevimento vede o ha tutte e cinque le luci e questo primo ricevimento si chiama Parzuf Adam Kadmon o Galgalta e tutte le cinque luci possono essere riflesse. Ma se c'è una luce in meno, com'è possibile vedere una luce in meno? Non c'è la capacità di vedere, quindi qual è il significato di vedere una luce in meno? Se vedi una luce in meno significa che non c'è comprensione per quella particolare luce o in altre parole non hai il gusto per quella luce. Hai già imparato che hai 10 Sfirot e puoi aprirti per tutte le luci e i mondi fino ad Azilut, ma è qualcosa di diverso, che significa che rifletti ciò che sperimenti. C'è l'esistenza degli Sfirot e c'è il gusto degli Sfirot. Hai 5 Sfirot, ma ciò non significa che hai il gusto per tutti e 5 Sfirot. Se dico che vedi una Sfira in meno, significa che non puoi vedere la luce di Keter. O in altre parole, non hai il gusto per la Sfira Keter. Ciò che rimane sono 4 sapori. 4 luci e queste 4 luci hanno 10 Sfirot. Puoi seguirmi? Vedi 4 luci ma hai 10 Sfirot, che significa che puoi sperimentare con i tuoi 10 Sfirot 4 sapori. È chiaro? Lascia che provi a spiegarlo con esempi del nostro mondo. Supponiamo che tu impari qualcosa e lo capisci completamente. Significa che hai gusto per tutte e 5 le luci. Puoi riflettere tutte le luci e questo è chiamato Gadlut. Gadlut significa che tutte le luci vengono in te e le sperimenti tutte. ma supponi che non sei capace di riflettere tutte le luci. Devi sapere che la luce che non puoi riflettere è la luce più alta. Sempre la prima luce in arrivo è la luce più bassa. Non voglio fare disegni perché se puoi vederlo senza disegni lo afferrerai di più. Senza disegni hai la possibilità di creare i tuoi disegni, non sulla carta ma nella tua mente. Ci sono 5 luci e ora capisci cosa intendo quando dico che hai una luce in meno. La luce che non puoi sperimentare è la luce Keter. La luce più alta è così è sempre. Ci sono altri nomi per le luci. Finora ho parlato della luce Keter, ma un altro nome per Keter è la luce Yekidah. Kokmah, luce Kaya. Binah, luce Neshama. Zerampin, luce Ruach. Malkut, luce Nefesh. 5 luci e finora ho parlato della luce che non potevi vedere, ma posso anche chiedere quale luce viene prima. Ti ho appena detto che prima arriva la luce più bassa, e quella è la luce Nefesh. La seconda luce è Ruach, seguita da Neshama, poi Chaya, e l'ultima luce è la luce più alta, la luce Yekidah. E quando le luci scompaiono, la prima luce che scompare è la luce Yekidah o Keter. Chiaro? È importante che la prima luce che entra sia la più bassa, altrimenti la luce ti accecherà. Quindi prima la luce più piccola e la luce successiva è un po' più forte, e la terza è più forte della seconda, e così via. Ma se non puoi sperimentare una luce è il contrario. La luce più alta di Keter scompare. Chiaro? Ora diamo un'occhiata a come ci si sente se non si può sperimentare la luce di Yekidah. La situazione non ha importanza. Ricorda che ciò che stai facendo non conta. Ad esempio, bevi una tazza di tè e non gusti tutti i sapori del tè. Forse hai il raffreddore. Non importa. C'è solo l'esperienza di 4 luci e queste 4 luci di sapori sono sparse nei tuoi 10 sfirot, in quella particolare situazione. Ovviamente la forza dei tuoi 10 sfirot sarà diversa, più debole di quando ricevi tutte e 5 le luci, l'intero sapore della tazza di tè nel nostro esempio. Ora puoi chiedere se c'è la luce, o forse è meglio usare il nostro esempio. Se tutti i sapori sono nel tè, cosa succede con il sapore che non posso gustare? Naturalmente la luce esiste, è sospesa sopra la tua percezione solo proprio in questo momento. Si ha solo la percezione di 4 sapori per le luci, e la quinta è appena intorno a te come Or Makif, la luce circostante. Significa la quinta luce che ti circonda. Non puoi vederlo, ma è lì nella tua aura, ma non nei tuoi Kelim. Quindi non puoi comprendere la quinta luce. Spero che tu capisca un pochino. Lentamente la tua comprensione si espanderà. Imparerai quali sono i 10 sfirot e le porte si apriranno. Tutte le porte della tua comprensione, dei tuoi sensi, si apriranno finché rimani persistente e hai pazienza, continuerai a insegnare lo Zohar. Così accadrà a te senza dubbio. Questo è molto speciale e un metodo insolito ma molto profondo. Non siamo in una scuola materna dove i bambini stanno giocando nel parco giochi. Questo metodo è così diverso e tuttavia è molto profondo. Questo metodo non viene dato da nessuna parte. Il mio più sincero desiderio è che voi ragazzi capiate e io farò ogni cosa per farvelo capire. Un giorno dirai: ora capisco la costruzione spirituale dei 10 Sfirot. E quando ciò accade, sappi che c'è ancora del lavoro da fare, ma ora hai più fiducia e sai cosa stai facendo. Questo è il compito che mi è stato dato, mostrarti la costruzione spirituale dei 10 Sfirot, e io compio questo compito con l'aiuto dello Zohar e con voi, miei studenti. In questo modo saprai come ogni cosa è interconnessa e puoi vedere fare le connessioni da un'estremità all'altra. Quello sarà il giorno in cui lo Zohar canterà per te e ti svelerà i suoi segreti. Domanda: dici che impareremo tutti e 10 gli Sfirot? Quello è lo stesso come conoscere Hashem? Risposta: sì. Ma questo è ancora diametralmente opposto all'idea che non puoi conoscere Hashem? Vedila in questo modo: mai conoscerai Hashem. Tuttavia si è fatto in modo tale che sarebbe possibile per noi conoscerlo. Da un lato lui è assolutamente impenetrabile e dall'altro lui ci dà la possibilità di arrivare totalmente a lui. Questo è il vero spirituale. Combina sempre quei due. Da un lato lui è impenetrabile e dall'altro lui dà l'opportunità di conoscerlo. Anche nei 10 Sfirot puoi vederlo. Ci saranno livelli di una sfera che non puoi penetrare e ci saranno livelli che dovrai conoscere. E questo può accadere nel livello più basso e più alto. Un momento in cui ti riconosci, sai quale sfera hai formato, riconoscerai qual è la tua essenza e qual è l'essenza dentro te che appartiene al Creatore. Alcuni li capisci e altri non li capisci. Keter, Kokmah e un terzo di Binah rimangono fuori portata, che significa che rimarranno incomprensibili per te. Hai 10 Sfirot e tuttavia 7 ne puoi capire, ma per ora è abbastanza. Ricorda che solo una parte dei tuoi 10 Sfirot è da capire e un'altra parte, non importa quale livello o situazione tu sei. Ora non pensare: se non posso capirli tutti, perché dovrei fare tutto il lavoro? Che importanza ha che ti porti in accordo con le leggi dell'universo? Fai ciò che è nelle tue capacità, che ti porterà alla completezza. Non la totalità che hai ora, perché ora vuoi avere tutti e 10 gli Sfirot, o potresti voler prendere il suo posto, proprio come accadde al tempo della Torre di Babele. Il tuo compito è di soddisfare il suo desiderio secondo il piano di creazione e che ti porterà alla vera realizzazione. Ciò che stai imparando qui, ciò che ti insegno, è il modo come raggiungere il vero compimento. Gradualmente andrai avanti, dolcemente penetrai nella formula distintiva e imparerai qualcosa di completamente sconosciuto. qualcosa che non è mai stato rivelato, tutti voi senza eccezioni. Ci sono stati molti vincitori del Nobel. Se potessero leggere queste parole, sarebbero stupiti e rimarrebbero meravigliati da ciò che resta da imparare. E voi che state leggendo, imparerete gradualmente tutto ciò che non è stato rivelato. Certo che lo è stato, ed è l'intenzione del grande che sarà rivelato, perché la formula del salvataggio: tutto ciò che ti ho detto non viene da me, tutto viene dallo Zohar. Non posso e non rivendico una parola. Sono un intermediario, ti passo le parole. Non c'è mai stato qualcuno che abbia sentito le parole che stai leggendo. Naturalmente ci sono stati dei cabalisti di cui la comprensione era grande, più grande di quella che ho io, ma non sono riusciti a trasmetterla perché non era il loro compito. Il mio compito è di trasmetterlo anche se erano immensamente più saggi. In questo vedi che colui che può trasmetterlo non è per definizione maggiore. Riesci a vedere questo? Lo stesso in ciò che dicono di Shimon Bar Yochai, l'autore di Zohar. Non era il più grande cabalista nel suo tempo. Certo che era un uomo saggio, ma anche se non c'erano molti grandi cabalisti nel suo tempo, ma c'erano pochi altri che erano più grandi di lui. Solo a Shimon Bar Yochai gli fu dato di trasmetterlo. La sua anima era adatta a fare questo. Naturalmente tutti gli scritti sacri sono stati nascosti per molti anni, e nel tempo di Shimon Bar Yochai c'era ancora il divieto di non rivelare tutto. La parte nascosta riguardava l'arrivo del Messia e la resurrezione dalla morte. Ma nel nostro tempo ogni cosa dovrebbe essere rivelata. Tutto ciò che la religione ha detto e racconta sulla resurrezione dalla morte sono come fiabe. Non dico che sono sbagliate, ma non puoi sperimentare. Rivelazioni, belle parole, ma nessun sentimento e niente da imparare, e se non puoi sentire o imparare, che cos'è la salvezza? Cosa ti succede? Non ti succede nulla in contrasto con ciò che impari qui. Tramite 10 sfirot saprai esattamente il modo in cui come arrivare alla realizzazione. Imparerai come funziona il meccanismo. Durante 6.000 anni nessuno ha potuto sperimentare Keter e Kokhmah estesi con i tre lati superiori di Binah, ma il resto lo puoi immaginare, sentire. Gradualmente ti porterò con me senza disegni. Forse qualche volta, ma raramente, disegnerò un'immagine. Voglio solo che ascolti, leggi attentamente. Apriti e ascolterai, leggi ciò che non ha precedenti per l'umanità. Sei venuto qui per sapere di più sulla formula di salvataggio. Se i vincitori del Nobel fossero presenti, capirebbero meno di te. Come mai? Hanno la loro logica, e finché non riescono a lasciare andare la loro logica, rimarrà impenetrabile. Perciò apri te stesso, dai il permesso a te stesso per lasciare le parole penetrare, poi tutti e 10 gli sfirot dentro di te diventano vivi. Una volta che sentirai e capirai i tuoi 10 sfirot, capirai come funziona l'universo. Non hai bisogno di altro. Una volta che vedi tutti i collegamenti, puoi aprire ogni libro di Kabbalah e ti parlerà. Un giorno ho trovato un manoscritto di Ramchal e ho iniziato a leggere. Prima non avrei capito, ma ora questo accadrà anche a te, dopo aver imparato dai tuoi 10 sfirot, perché i 10 sfirot è il creatore. Chiaro? 10 sfirot o il creatore o Avaya, e lui vuole che lo conosciamo. Da un lato il creatore rimane impenetrabile, ma dall'altro puoi sperimentarlo e tramite 10 sfirot puoi contattarlo in modo diretto. Se incontri qualcuno e ti dice che ha visto la luce, forse ha appena visto una bella ragazza, e ha visto la luce significa che pensava questo è il creatore, ma ha visto solo una ragazza meravigliosa che gli ha dato il sentimento di aver visto la luce. È possibile che anche tu lo sai. Devi sapere che senza alcuna conoscenza del sistema operativo del creatore non puoi vedere la luce. Qual è la luce? L'unica cosa che significa sono i 10 sfirot e nient'altro. È impossibile spiegare la Kabbalah. È una combinazione di punti di forza, che significa che i punti di forza dell'altro devono essere anche coinvolti, solo allora può aiutare. Se vuoi dire a qualcuno della Kabbalah, fallo, ma in modo che lasci che i tuoi punti di forza rimangano sul tuo livello. Non importa se capisce o non riesce ad ascoltare, porti un pezzo di salvezza da sopra a sotto e il livello non ha importanza. Prima Ein Sof o il creatore, sappi che è lo stesso, hanno fatto un modello dei punti di forza. Lo costruì in modo tale che potessimo usarlo qui sotto, perché siamo parte della sua creazione, del suo progetto. Prima c'è stato il primo ingrossamento e questo è chiamato Galgalta, o Adam Kadmon, o il Keter di Adam Kadmon. Vedi quanti nomi usiamo per una energia? Ma tuttavia non pensare che la Kabbalah sia difficile. Non lo è. Abbi pazienza e rimani aperto. Permetti all'energia delle parole di fare intagli dentro di te. All'inizio la Malkut era al suo posto e poteva sperimentare tutte le 5 luci. Significa tutto ciò che è entrato nella creazione, lei poteva portarlo giù, e lei lo portò giù fino al punto del nostro mondo. Ma la creazione doveva essere capace di ricevere la luce, e la luce era così tagliente che nessuno poteva sperimentare. Nel successivo ingrossamento, la Malkut salì al posto di Zerampin. Qual è il significato dell'ingrossamento della luce? Il significato dell'ingrossamento della luce è che Malkut, quando salì a Zerampin, riuscì a vedere solo 4 sfirot invece di 5. Chiaro? Il nome del secondo ingrossamento è Kokma o Ab. E ovviamente Kokma aveva anche 10 sfirot, ma non i 10 sfirot del Galgalta o Keter. Ora i 10 sfirot si sono diffusi in 4. 10 sfirot con 4 luci, 4 sapori, quindi meno forza. Chiaro qual è il significato di ingrossamento? Significa che c'è meno luce, ma ci sono ancora 10 sfirot. Ad esempio, il tuo soggiorno ha 90 metri quadrati e sul soffitto appesa una lampada con lampadine da 500 watt. È molta luce, ma ora porti via una lampadina, ma hai bisogno di vedere uguale. Cosa succede? La luce si diffonde sulla tua capacità di vedere, ma la luce è diventata meno. Infine c'è solo una lampada e quella è la tua visione. Ovviamente si tratta di un forte ingrossamento della luce, ma spero che chiarisca qualcosa. Lo stesso accade con la creazione. Prima una luce è venuta giù, che significa 5 luci sono venute giù. Ma Keter fu il primo a ricevere. Il successivo ingrossamento o la seconda radiazione della luce è chiamata Kokma o Ab, 10 sfirot in Ab. Ma una luce in meno significa che le rimanenti 4 luci sono state diffuse in 10 sfirot di Kokma o Ab. Quale luce non è entrata? La luce Keter non entra. Ti ho detto che se una luce non entra, è sempre la luce più alta. Un altro nome per la luce di Keter è luce Yekida. Ora arriva il terzo ingrossamento. Cosa succede nel terzo ingrossamento? Qui in questo ingrossamento la Malkut sale a Binah, che significa che la sua riflessione è più breve e per questo ha meno forza. Quante luci può vedere? Ora devi sapere che la luce ha sempre 5 sapori, che significa che ci sono sempre 5 luci, ma sperimenterai meno luci, meno sapori. Durante il terzo ricevimento, la Malkut aumenta e arriva al posto di Binah, e Binah si solleva perché vede meno luci. Anche la seconda luce è sparita, che significa che la luce di Kokma non è visibile, e qui nel terzo ricevimento Malkut è al posto di Binah. Il quarto ricevimento è chiamato il mondo Nekudim. Ora la domanda è: dov'è la vera Malkut con i suoi 10 sfirot? Durante il primo ricevimento della luce, Ein Sof Malkut era al suo posto, significa in fondo, e poteva sperimentare tutte e 5 le luci. Con queste luci si formarono i suoi 10 sfirot. Durante il secondo ricevimento, la Malkut sale al posto di Zerampin, 5 sfirot ma 4 luci. Per questo i suoi 10 o 5 sfirot possono vedere solo 4 luci. Nel terzo ingrossamento, Malkut sale a Binah, che significa che vede una luce in meno. Vede solo 3 luci e le rimanenti 2 luci che non può vedere. Nel quarto ingrossamento, Malkut sale a Kokma e ora vede solo 2 luci, le luci di Keter e Kokma. Il quinto ingrossamento è il mondo Azilut, e la Malkut con tutti i suoi 10 sfirot sale a Keter. Qui nel mondo Azilut, Malkut è in Keter. Ora fai attenzione. Malkut sale e viene sempre da Binah, il livello o la sfera non ha importanza. Per ora è importante ricordare che Malkut arriva sempre in Binah. Per esempio, Malkut sale a Zerampin, che lei è nel posto di Binah del Zerampin, e quando Malkut sale a Binah è nel posto di Binah de Binah, e quando sale a Kokhmah è nella Binah di Kokhmah, e lo stesso in Keter. Quando Malkut sale a Keter, lei è al posto della Binah del Keter. Chiaro? Perché? La ragione di ciò è che Binah produce Malkut. Ricordi i 5 stadi della luce diretta? Ricorda sempre questo, Ein Sof si è trasformato in 5 stadi. Il primo stadio è Keter, che ha solo luce con la qualità del dare. Ricorda che la qualità di Keter è quella di dare, anche se ha ogni cosa, lui è la qualità del dare. Sii paziente, gradualmente arriverà. L'unica cosa che devi fare è cambiare il tuo modo di pensare. Persino un vincitore del Nobel non può fare la Kabbalah perché è così affezionato al suo modo di pensare. Il suo obiettivo è scoprire cose straordinarie, ma noi stiamo andando ben oltre la realtà, così lontano che uno scienziato non può raggiungerci. Quale realtà scopriamo? Scopriamo la realtà di noi stessi. La qualità di Kokhmah è di dare a Binah, ma Binah resiste, non vuole ricevere. Il desiderio di Binah è di dare proprio come Kokhmah, ma lei a chi può dare? Quello sopra di lei non ne ha bisogno, quindi può solo dare a quelli sotto di lei, Zerampin e Malkut. Il ricevitore principale è Malkut, e Zerampin deve essere visto come un intermedio. La maggior parte della qualità della forza di Zerampin è di dare, perché lui viene da Binah. Più ti avvicini a una sfira, più qualità conosci, e prendi il controllo di quella sfira. Zerampin è più vicino a Binah, quindi la maggior parte dei suoi punti di forza sono come Binah, ossia di dare. Eppure si trova a distanza, quindi alla fine del suo sviluppo vuole ricevere un po' per trasmetterlo a Malkut. Questo significa che Zerampin ha poca forza da ricevere, ma ciò che riceve è trasmetterlo a Malkut. Entrambi vengono da Binah. In ogni sfira e in qualsiasi momento, Malkut può salire a Binah perché Binah è la sorgente di Malkut. Malkut è nata da Binah e in ogni sfira c'è Binah, che significa che possono essere in qualunque sfera o livello. Quante luci può vedere lei finisce sempre in Binah. Trasforma la tua mente. Hai il desiderio di imparare la Kabbalah. Quindi hai bisogno di sfondare la mente terrena. Non puoi sperimentare lo spirituale se ti attieni alla mente terrena. So che è difficile lasciare andare la mente terrena. Hai bisogno di molta perseveranza, ma questa è decisamente una delle condizioni per raggiungere lo spirituale. Se non rimani connesso con questo mondo, non è poi così male. Può essere che accadrà nella prossima generazione o una generazione dopo, ma hai bisogno di lasciare andare la tua resistenza, il desiderio di attenerti alla tua mente terrena. La Kabbalah sembra che naviga, come una barca che ondeggia con le onde. Così devi ondeggiare con la Kabbalah. Se puoi fare questo, i miracoli accadranno. Improvvisamente hai l'esperienza dello spirituale. Non pensare, alcuni sono qui da più di 2 anni, altri solo pochi mesi, ma pensi che qualcuno possa sperimentare la Kabbalah dopo pochi mesi? Dimenticalo. Per me è stato peggio dopo alcuni mesi. Non ho potuto assolutamente sperimentare. Per me l'intellettuale era un gioco da ragazzi, la matematica era un gioco per me. All'università ho fatto 2 gradi in 1 anno. Ero molto bravo e ho studiato nella migliore università della Russia. Ovviamente era pensando, e pensavo che sarebbe stato lo stesso con lo spirituale. Dimenticalo. Al contrario, devi renderti piccolo, sottile e ricevibile, ricettivo. Non per giocare, ma sinceramente per sentire come è grande il Creatore. Se hai problemi di concentrazione, questa è una buona visualizzazione. Il nostro problema è che uno non può vedere come è grande il Creatore. Non c'è difficoltà a vedere come sono grandi Madonna o altri artisti. La loro grandezza uno la sente, ma non la grandezza del Creatore, che è molto possente. Prova a vedere la grandezza del Creatore, e se lo fai mentre stai imparando o leggendo, hai fatto te stesso ricevibile per la luce, per l'eternità. In Azilut la Malkut è salita a Binah del Keter. Fai attenzione, questo è molto importante. Tutto quello che ti sto dando. Ci sono volute altre generazioni, molti anni, ed io te lo do in una forma compressa. Il mio obiettivo è che tu possa capire in una durata molto più breve del tempo che avevo bisogno di capire. Notte dopo notte non riuscivo a dormire, anche se ho usato ogni cellula del cervello per capire, e ancora non potevo. Ma sono un uomo molto testardo, il mio problema è che non posso lasciare andare. Devo penetrare il problema e qui, con tutta la mia intelligenza, non potevo. Puoi immaginare la mia frustrazione. Mi sono sentito miserabile perché ogni studio era nulla. E ora, ogni studio, se qualcuno dicesse impara il cinese, risponderei quand'è l'esame. Io non lo so cos'è, ma l'apprendimento mi viene naturale, mentre in casa non so come cambiare una lampadina. Mia moglie deve farlo. Mi sono laureato in robotica. Sai cos'è la robotica? È uno studio per imparare come fare dei robot. Uno ha bisogno di molta logica e mi sono laureato in robotica. Il mio professore a Mosca era il professor Boguslavski. Quando sono venuto in Olanda avevo ancora altri due anni da fare perché qui non accettano un diploma straniero. Ho studiato a Delft e il mio professore mi ha chiesto con chi mi ero laureato. Gli ho detto il professor Boguslavski e lui ha risposto: «Oh, Boris Petrovich», ed è stato molto felice. Lui è diventato il mio migliore amico. Il professor Boguslavski era uno dei più grandi. Io ero un giovane di 25 anni. e quando mi sono laureato, lui mi disse: «Non dovresti andare a lavorare come ingegnere, hai quei talenti e il tuo potere sta nel pensiero sistemico». Disse: «Vieni da me e ti aiuterò a incentivarlo e poi lavorerai con me». Era in espansione, ma era tutta teoria, intelletto terrestre. Sono fuggito da esso, anche se non sapevo perché. Ora lo so, ero destinato a fare questo. Solo in questo posso sentire la forza suprema. Non nell'intelligenza del professor Boguslavski o di altre persone intelligenti che non sono state corrette. Cos'altro c'è da chiedere se questa è salvezza? Anche se non riesci a penetrare, ascolta e leggi attentamente. Avere il desiderio e la giusta intenzione, Kavanah, un giorno accadrà e capirai tutte le parole che hai letto. Ad Azilut la comune Malkut, che non poteva ricevere, si elevò. All'inizio 9 Sfirot potevano ricevere, ma non Malkut, e ora la Malkut che non poteva ricevere, questa Malkut de Malkut, il punto nero che non può ricevere luce fino al tempo del Gmar Tikkun, la correzione finale, quando il Messia verrà e la morte non ci sarà più. Qual è il significato di la morte non ci sarà più? Questo significa che anche Malkut riceverà la luce. Ma cosa durante quei 6.000 anni, cosa fece il Creatore? Lui nascose Malkut nel Keter. Malkut è ora nascosta nella Binah del Keter del mondo Azilut, e questo è chiamato Atik. Riesci a vedere tutti gli Sfirot, non importa in quale mondo, ma qui parlo del mondo Azilut. 10 Sfirot sotto il Tabur. Nel mondo Azilut è la luce Kokhma. Il mondo Azilut o 10 Sfirot di Azilut è nascosta Malkut che non può ricevere. È nascosta nella Binah del Keter. Chi o cosa è Malkut? Malkut fa le limitazioni. Il suo ingrossamento è così rude che lei fa limitazioni nel luogo dove arriva, e lei è nascosta nella Binah del Keter. Cosa significa questo? La luce arriva a Malkut ma non alla creazione. Cosa c'è sotto Malkut? Sotto Malkut ci sono 7 Sfirot di Keter. Ogni Sfira consiste da 10 Sfirot di se stessi, o 5, Keter, Kokhmah, Binah, Zerampin e Malkut. Ora Malkut è salita in alto e sta in Keter. E naturalmente Keter ha anche 10 o 5 Sfirot di se stesso. Keter del Keter, Kokhmah del Keter, Binah del Keter, Zerampin del Keter e Malkut del Keter. Ti ho insegnato che Malkut sale sempre a Binah, così in questo caso Malkut sale alla Binah del Keter. È chiaro? Sorge una nuova domanda. Cosa resta indietro? Quali Sfirot di Keter sono sotto questa Malkut de Malkut? Naturalmente Zerampin e Malkut del Keter. Spero che tu possa seguirmi perché non voglio fare disegni. Domanda: cosa vuol dire con ora? Com'è andata prima? Prima Malkut stava sul suo posto e gradualmente Malkut si alzò di un grado. Allora lei poteva ricevere 4 luci e quando si sollevò di un grado in più poteva ricevere 3 luci e quando arrivò in Azilut ricevette solo una luce. È chiaro? Perché questo era necessario? Sii paziente, in questo è il salvataggio. Continuo a spiegare, ma questa è la base e la base dovrebbe essere buona. Qual è il significato dell'ingrossamento delle luci? Il Creatore creò la creazione in modo tale che sarebbe stato possibile per la creazione ricevere la luce. Non solo ricevere la luce, ma anche comprendere la luce. Riesci a immaginare il mondo Azilut che riceve la luce, ma solo tre scomparti da Keter? Azilut riceve dal Parzuf Keter, o in altre parole, il Galgalta di Adam Kadmon. Era necessario ridurre la luce, capisci? Il Creatore ha fatto due cose. Prima la riduzione della luce. Come si può ridurre la luce? In un certo senso la luce non può essere ridotta, ma è menzionata in questo modo. A causa dell'ingrossamento diventa più difficile vedere la luce, è chiaro? Qui in Azilut solo i primi tre Sfirot di Keter erano visti. Keter de Keter, Kokma di Keter e la parte superiore della Binah del Keter. Il resto non poteva essere visto e la ragione di ciò è perché la Malkut de Malkut è salita in quel luogo. Malkut non può ricevere. La Malkut de Malkut non può ricevere la luce. Lei rimase lì e fermò la luce. Solo dopo 6.000 anni e quando arriva il Messia, e poi altri 3.000 anni, fino a quando la morte non esiste più. Poi c'è una tale liberazione dei punti di forza, allora anche Malkut può ricevere. E alla fine questa Malkut scenderà al suo posto, sotto. Scenderà da Azilut attraverso il mondo Bria, Yetzirah e Asiya, fino al punto del nostro mondo. È scritto nella Torah, poi i piedi del Messia staranno sul monte degli Ulivi. Dopo 10.000 anni, dopo l'arrivo del Messia, la Malkut che fu nascosta per 6.000 anni nel Keter di Azilut scenderà prima alla Malkut del mondo Azilut e poi altri 3.000 anni. Perché 3.000 anni in più? Perché ci sono altri tre mondi. Nei primi 1.000 anni lei scenderà a Malkut. I seguenti 1.000 anni sono gli anni di Shabbat. Significano tutti i tipi di trasformazione e pace sulla terra. I seguenti 1.000 anni la Malkut scenderà alla Malkut della Bria e tutte le limitazioni saranno cancellate. Malkut era così alta, quindi ha impedito alla luce di venire da noi. Tutto questo è accaduto in modo molto speciale e imparerai questo. Ti parlerò della formula di salvataggio che è necessaria per raggiungere questo. Ti dirò poi come puoi ricevere e non come dovresti ricevere. Perché? All'inizio la Malkut è sopra e lei impedisce alla luce di scendere. La Malkut de Malkut, che discese a Bria, sarà illuminata e nei seguenti 1.000 anni la Malkut scenderà a Yetzirah, perché ogni cosa deve combaciare. Alla fine Malkut arriva nella Malkut. Cosa accadrà? Quando saluti qualcuno, gli dai una mano, e non i tuoi piedi. Le mani si stanno toccando, si salutano. E se vuoi dare un bacio a una persona sulla guancia, la persona girerà la guancia o le labbra se vuoi baciarlo sulle labbra, chiaro? Questo è ciò che si intende con ogni cosa deve corrispondere. Chiaro? La Malkut scende alla Malkut di Yetzirah. Cosa accadrà? La Malkut che era così impenetrabile ora è molto trasparente. E poi, dopo 1000 anni, la Malkut scende alla Malkut di Asiya. E quando questo accade, l'intera creazione riceverà la luce. Dove sono finiti i Klipot, le forze impure? Sono scomparsi. Questa è la struttura di Azilut, e la stessa struttura è presente in Briah, Yetzirah e Asiya. Briah ha la stessa struttura, che significa che la Malkut è nascosta nel Keter, e la Malkut della Yetzirah è nascosta nel Keter, e la Malkut di Asiya è nascosta nel Keter. Come è nei mondi, così è con te. In ogni situazione hai Malkut, e Malkut limita le luci perché lei è nel Keter di quella situazione. Se Malkut limita la luce, cosa puoi ricevere? Malkut sale in ogni sfera fino alla Binah del Keter, e sotto questa Malkut c'è il riposo. Keter e Kokhmah sono limitati, sono troppo alti e non puoi sperimentarli. Lo stesso con te, perché anche tu sei un prodotto di questo. Significa che non puoi sperimentare il Keter e il Kokhmah, non importa qual è la situazione. Quella è la parte che è impermeabile. Potresti dire che queste sono le caratteristiche del Creatore che stanno nascoste fino al Gmar Tikkun. Ti ho detto che ci sono molte forze, apprensioni che non vengono a rivelazioni. Ciò non significa che non potresti avere comprensioni. Senza capire puoi avere un tipo di rivelazione. Una rivelazione non deve essere esplicita. Può venire a te come se stai sognando o hai una rivelazione e l'esperienza non è ovvia. Sappi che capitano molte rivelazioni, ma potresti non riconoscerle come rivelazioni. Tuttavia, una parte rimane impenetrabile e quella è la sfera di Keter e Kokhmah e il terzo superiore di Binah. Keter e Kokhmah sono assolutamente impenetrabili e dopo di loro viene una separazione. Il nome per quella separazione è Parsa, ma la luce è ancora presente. Solo Keter e Kokhmah sono troppo alti e sotto questa separazione c'è la Binah. Qualcosa di più è successo ad Azilut. Normalmente Binah apparteneva ai tre Sfirot della testa, Keter, Kokhmah e Binah della testa. Ma qui in Azilut il Creatore fece qualcosa. L'intero significato della creazione dei mondi, qual era la sua idea? Rendendo la luce più piccola, lui creò i Kelim. Per mezzo dell'ingrossamento della luce, egli fece in modo che la luce rimanente potesse essere sperimentata. Nella sua mente c'erano due cose: l'ingrossamento della luce, che significa rendere la luce più piccola, e la seconda era la formazione dei Kelim, l'opportunità per noi di fare i Kelim più grandi. Lasciami fare un esempio. Immagina di entrare in una stanza dove la luce è accecante. Non puoi vedere una cosa. Ora cosa puoi fare per vedere cosa c'è nella stanza e che non sarai accecato? Occhiali da sole. Eccellente. In un certo senso si potrebbe dire che il creatore ha creato occhiali da sole per noi. E ancora più occhiali da sole. Fino alla fine gli occhiali da sole sono così forti e ci lasciano poca luce, ma ora puoi tenere gli occhi aperti. Questo è un modo per ridurre la luce. Puoi indossare occhiali da sole o portare via una lampadina. Non importa cosa fai se ti senti sicuro a tuo agio. Lo spazio della stanza può essere paragonato a quello del mondo. Hai bisogno di occhiali da sole adatti per vedere. La seconda cosa che il creatore ha fatto è stata l'opportunità per te di fare i kelim maggiori o, in altre parole, di allargare lo spazio dei tuoi sensi. Da un lato il creatore fa la luce più piccola e dall'altra parte ti ha dato l'opportunità di rendere i kelim più grandi. In entrambi i modi, entrambe le parti lavorano. Il mondo Azilut è un buon esempio, perché qui entrambe le parti stanno lavorando. La luce è diventata meno tramite Malkut, che significa che Malkut poteva vedere solo una luce invece delle cinque luci, che è la riduzione. E c'era spazio in Azilut sotto il Keter e Kokma. Questo è ciò che si intende quando dico che Binah è uscita. Binah uscì dallo spazio superiore e fu aggiunta allo spazio della consapevolezza della creazione. All'inizio Keter, Kokma e Binah erano la testa. Nota che questa è anche un'altra parola per la luce. Dopo di loro arrivarono Chesed, Vura e Tiferet. Ora Binah è uscita dal Kokma e lei non è più tra le prime due Sfirot perché è uscita. Cosa significa questo? Malkut salì alla Binah di una certa sfera. Questa può essere la sfera di Keter o Kokma o Binah o Zerampin o Malkut. Come sai, Malkut de Malkut sale alla Binah di quella particolare sfera. Chiaro? Lo stesso è accaduto in Kokma e quando Malkut si eleva al Keter, esattamente lo stesso evento avviene, perché c'è una legge spirituale. Ciò che è una legge per il superiore sarà adottata dall'inferiore come la stessa legge. Pertanto non c'è nessuna differenza nella sfera. Sempre la Malkut sale alla Binah di quella particolare sfera. Queste sono le costruzioni degli Sfirot. Ci sono 5 o 10 Sfirot. 5 quando parliamo di Keter, Kokma, Binah, Zerampin, Malkut. E 10 quando li menzioniamo tutti. Keter, Kokma, Binah, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malkut. Tutti gli Sfirot superiori sono assolutamente impenetrabili per noi, ma tuttavia esistono. Il significato di essere impenetrabile significa che solo tu non puoi sperimentarli perché ti manca il sapore o non hai la forza di sperimentare. Ricorda che nessuno di noi ha la forza di sperimentare Keter e Kokma. Non credo che questo sia un male, perché questo non è il momento di sperimentarli. Più tardi, dopo l'arrivo del Messia, avrai la forza di sperimentarli. In un certo modo, ora ci sono posti vuoti dove ognuno può creare la propria creazione, o in altre parole, c'è spazio per ognuno di noi di fare le proprie correzioni. Tutti noi dobbiamo fare le proprie correzioni individuali fino al momento dell'arrivo del Messia. Questo è il tempo per la completa salvezza. Sta significando che Malkut è venuta fino al mondo a Sia. Questo è il tempo in cui la morte non esisterà più. Ma come dovrebbe essere con noi? Cosa c'è da respirare? Quale luce c'è da ricevere? Cosa c'è in fondo? Se non puoi sperimentare i primi due, sappi che ne rimangono 8 per l'esperienza, ossia Binah, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malkut. Lentamente l'esperienza che avrai è senza paragoni. Hai solo bisogno di uscire dal tuo pensiero e aprirti. Ciò che molte generazioni prima di noi non hanno avuto successo ti accadrà. Anche quelle persone che sono state canonizzate non hanno potuto sperimentare quello che stai andando a sperimentare, per la semplice ragione che il tempo è pronto. Tu sei pronto. Non dirò mai seguimi, devi seguire le tue 10 sfirot, significa che ti dà l'esperienza del Creatore. 8 sfirot sono lì per te, per l'esperienza. Non importa che livello sono, possono essere 8 sfirot di Azilut, o gli 8 sfirot di Bria, o Yetzira, o Asiya. Hai i tuoi 8 sfirot, anche il tuo gatto o un cane, non c'è differenza. Anche il presidente degli Stati Uniti ha i suoi 8 sfirot. Sempre 8, perché nessuno di noi può sperimentare Keter e Kokhmah fino all'arrivo del Messia. Come sapete, Binah ha 5 sfirot. Keter della Binah, Kokhmah della Binah e Binah de Binah. Questi non si possono sperimentare, ma c'è qualcosa di speciale con questi 3 sfirot. Sebbene non sia possibile sperimentarli, contribuiscono alle tue correzioni. In un modo o nell'altro, contribuiscono alla ricezione della luce. Ciò che rimane sono i 7 sfirot sotto Binah: Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malkut. O potresti dire Zerampin e Malkut. Chiaro? Questi sfirot saranno comprensibili solo se hai bisogno di sapere come renderli attivi. Vengono da Binah. Intende che c'è Chesed di Binah, Gvura di Binah, eccetera. In questo puoi vedere come tutto è interconnesso. Tutti i punti di forza provengono da Binah. I punti di forza di Zerampin e Malkut vengono da lei. La prima reazione di Binah è stata: non voglio ricevere, voglio solo dare ai miei figli. I suoi figli sono Zerampin e Malkut. La parte inferiore di Binah, Zerampin e Malkut, sono le parti che devono essere comprese. Questo è molto importante da ricordare. La prossima volta esamineremo più da vicino questo argomento, perché il salvataggio è qui. E in qualche modo arriviamo a qualcosa di formidabile, che finora in nessun posto del mondo è stato ricevuto o non è stato detto, perché l'uomo, l'anima, non era pronta. E ora siamo pronti per questo. Tutti noi sentiremo la formula del salvataggio e alla fine, insieme noi studiosi, impareremo da noi. La formula di salvataggio è così importante che gli scienziati diventeranno curiosi e alla fine si applicheranno nel loro campo. Cioè, se i medici applicassero la formula di salvataggio nel loro campo, sarebbero capaci di curare i loro pazienti e le malattie nel mondo. Tramite la formula di salvataggio sarà possibile combattere le malattie più gravi, se si capisce la formula di salvataggio. Ma per ora sii paziente, apri te stesso e ricevi la formula di salvataggio per te stesso. Lascia che la formula di salvataggio sia la base del tuo adempimento. Shalom.